Unità 2. Pronuncia. Traccia 16. 1. Vogliono una singola? 2. Vogliono una doppia? 3. C'è il televisore? 4. C'è il frigobar? 5. Vuole una camera matrimoniale? 6. Vuole una camera con bagno? 7. La stanza è la 71? 8. La stanza è la 66.